due di denari vi ascolto e magari risparmi un po' quei consigli della Rosciani e me assa sopravviverò. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Io non vorrei trovarmi nella condizione di quella signora a cui è successa questa cosa drammatica. Da un certo punto di vista non vorresti trovarti in quella condizione, però da un altro punto di vista, che è successo? Mi affido al buon cuore di tutti gli abitanti di Cantù. Nel caso trovassero il tennis che si è smarrita la signora in questione, ma magari anche un signore che voleva regalarlo alla fidanzata, alla moglie, e insomma è stato trovato questo messaggio, questo avviso su cui campeggia questo drammatico appello: smarrito un tennis, chi lo trova sarà ricompensato. Un tennis di diamanti, però devi precisare. Esattamente. Per quello, ma guarda Monroe, che le signore che hanno ascoltato la notizia sanno benissimo di che cosa sto parlando, perché tutte sognano o hanno o possiedono o riceveranno, esatto, un quindi tennis. Faccio un altro appello: a me non è mai stato regalato, fate un po' voi. Vedete un po' voi. E apriamo un concorso con gli ascoltatori. Se volete potete cominciare a prenotarvi per regalare un tennis di diamanti. Un investimento di lunghissimo termine, esatto. Pianificazione finanziaria. Non una lezione di tennis, no, ecco, mi raccomando. Quelle le fai tu d'estate. E neanche i diamanti, quelli lì delle banche. Cioè, prima o poi toccherà tornare a parlarne. Ecco, nonostante tutte le disavventure di chi ha investito in diamanti negli ultimi anni, ecco, sappiate che a me questo investimento, magari me lo farò da sola prima o poi, non dispiace affatto, io ci credo profondamente. Se ma no, perché se... lo chiamano il tennis? Scusa. Lo so, ma io ho chiesto a San Google, protettore degli ignoranti, e ho scoperto che si chiama così in realtà non da molto tempo, esatto. Cioè dal 1987, perché una giocatrice, una famosa tennista americana, Chris Evert, si perse un costoso braccialetto di diamanti. Come e perché giocasse una partita ufficiale con un braccialetto di diamanti al polso, non vogliamo indagare. Non dobbiamo mica essere sciatte quando facciamo sport. No, ho capito, scusa. Però era un braccialetto di diamanti costoso, formato da unica fila di brillanti. Stava giocando un match degli US Open, quindi neanche una partitella, hai no, capito, esatto. Così. Diciamo che questo ci ricorda anche quelli che sono gli emolumenti dei giocatori di tennis quando raggiungono un certo livello. Quindi per lei era come giocare con un braccialettino di stoffa, non lo so. Sì, sai che però le giocatrici in realtà, ma su questo dovremmo aprire anche un'altra puntata, le sportive sono sempre gender pagate gap, meno pay, degli sportivi, e questo non va bene. Comunque la Evert disse: mi spiace, io ho perduto il braccialetto, qui non si va avanti a giocare finché non lo si trova. Esatto. E quindi ci fu questa sospensione dell'incontro, e si misero a cercare il braccialetto, che da allora, appunto, questo tipo di braccialetto, cioè la fila unica di diamanti formata tutta insieme a braccialetto, venne chiamato un tennis. Tra l'altro adesso però, sempre su San Google, protettore degli ignoranti, ho trovato che la chiusura di questi braccialetti viene fatta con un po' più di rinforzo, di modo che se qualche signora vuole giocarci anche a tennis non c'è problema, non bisogna interrompere la partita. Testerò quando mai arriverà questo bracciale nella mia vita, lo testerò in palestra e quindi ti farò sapere se la chiusura è adatta all'attività sportiva. Tra perché poi se lo perdi ci tocca chiamarlo un tapirulan di diamanti o qualcosa del genere. No, sarebbe interessante verificare se esiste il filmato di questa circostanza, perché vorrei proprio vedere la faccia del giudice di gara che ha dovuto interrompere appunto il torneo per trovare il bracciale. Letto, allora vabbè. Scriveteci 349-238-6666 per due cose sostanzialmente: se volete regalare un tennis di diamanti a Deborah, sì, quindi ecco, prenotatevi, sì, raccolgono prenotazioni, raccolte, il crowdfunding possiamo fare per questa operazione. Oppure anche per altre vicende, se avete il filmato, se volete segnalarci questo filmato che mi ha consigliato appunto il signor Google. C'è anche l'altro numero naturalmente per intervenire in diretta, 800240024, intervenire in diretta è importante perché oggi parliamo di lavoro e di mismatch. Voi direte che novità, è mercoledì, tutti i mercoledì ci parlate di lavoro. Sì, però lo facciamo con degli esperti, come sempre, di valore mondiale. Vuoi annunciarli tu, Deborah? Allora, intanto ringraziamo per essere venuta a trovarci qui negli studi di Radio 24 di Milano, ma non è che ha fatto molta strada essendo qua a Milano, Marina Verderheim, esperta di politiche del lavoro, gestione e formazione delle risorse umane, ma soprattutto è presidente di ACTL, Job Farm, e co-founder di Recruit, agenzia per il lavoro di intermediazione, ricerca e selezione, e direttore di jobfarm.it news. Poi spiegheremo naturalmente che cosa consistono tutti questi numerosi lavori. Dottoressa Verderheim, grazie di essere venuta a trovarci e buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Ci faremo raccontare l'attività di Sportello Stage della regione Lombardia, ma in realtà ormai con un'ampia diffusione territoriale, perché chiaramente il momento dello stage è molto importante per collegare le persone che cercano lavoro e le aziende, e siccome il mismatch si consuma tutto lì, cercheremo di capire l'utilità di questa vostra attività, soprattutto espressa in tutta la realtà territoriale, perché è molto importante capire anche le differenze a livello geografico che ci sono in questo problema di mismatch. Una cosa è che si manifesti a Palermo, una cosa è a Milano, e quindi chiaramente per un problema diverso forse vanno messe in campo anche soluzioni di natura diversa. Certo. E poi più avanti nella puntata invece interpelleremo un autore di un libro molto interessante, sì, perché l'autore è Matteo Rizzi, lo avremo in collegamento più avanti, autore del libro Talenti e ribelli, gestire gli irrequieti dell'innovazione. In realtà è un po' un catalogo, una antologia di vicende in cui si capisce che a talvolta la propria vocazione lavorativa, professionale, ma anche di realizzazione di vita, poi alla fine bisogna un po' cercarsela per caso, o con una certa testardaggine, o anche credendo in se stessi, quando magari sembra che tutti gli altri ci dicano: ma questa proprio non mi pare la tua strada. E invece chi può dirlo? Può darsi che quello che vediamo noi dentro noi stessi ci riveli cose inaspettate. Ce ne parlerà appunto Matteo Rizzi, che avremo ospite più tardi qui al nostro mercoledì del lavoro, nella nostra rubrica. Prima di tutto questo però, cara Deborah, l'adempimento della giornata. Il giornale radio del risparmio. Me azza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Credo che voleranno ben poco tutti coloro che hanno prenotato dei biglietti per Air Italy, che chiude i battenti, e questa è un'altra bella emergenza nazionale che è già decollata da qualche tempo e ormai ha preso il volo. Allora, ci sono i due commissari liquidatori che sono stati nominati ieri e che presto incontreranno anche la ministra dei trasporti De Micheli, ma soprattutto ci interessa capire il prossimo imminente disagio per tutti i passeggeri che appunto hanno un biglietto in mano e che erano intenzionati a partire con questo titolo di viaggio di questa compagnia. Allora, Air Italy ha fatto sapere che sta lavorando per ridurre al minimo il disagio appunto per i passeggeri. I voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio possono dire addio al volo con Air Italy, ma la compagnia ha fatto sapere che saranno riprotetti o rimborsati integralmente. Ben più problematica ovviamente la situazione per i 1200 dipendenti, la cui vita, il cui destino a questo punto professionale è appeso ad un filo. E alla mediazione governativa, come ricordava, sì, Deborah, con i vari azionisti di Air Italy. Air Italy peraltro è la seconda compagnia italiana dopo Alitalia, quindi il settore evidentemente manifesta delle difficoltà persistenti proprio nel nostro paese. Per una compagnia che chiude, però ce n'è un'altra nostra grande amica che continua ad aprire. Certo, perché dobbiamo citare anche oggi, dobbiamo citare Amazon. Allora, ecco, lo faccio io, perché siccome, esatto, qualche ascoltatore pensa che Amazon abbia assoluto magari bisogno della nostra pubblicità. Magari trovo un tennis lì scontato, va, adesso vado subito a vedere, hai visto mai? Ma potrebbero anche spedircelo direttamente qua questi signori, no? Che modo è indelicato. Allora, in realtà Amazon, la notizia è seria: investimento complessivo di 140 milioni per realizzare altri due centri di distribuzione appunto di Amazon in Italia, a Colleferro, nei dintorni di Roma, e su un'area dei comuni di Castelguglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo. Entrambi i centri, hanno fatto sapere, verranno inaugurati entro fine anno. Fa più o meno 33 anni dall'apertura, 1400 nuovi posti di lavoro, secondo sempre la comunicazione della società, a tempo indeterminato. Ci sono anche delle indicazioni logistiche, il deposito ad esempio di Castel Guglielmo avrà una superficie coperta di 50.000 metri quadri e occuperà fino a 900 addetti. La cosa importante da dire di mercoledì qui a Due di Denari è che in estate inizieranno appunto le selezioni per gli operatori di magazzino ai quali verrà offerto il contratto nazionale di logistica e trasporti. Salario d'ingresso 1.550 euro lordi e qui confidiamo tutti anche nella riduzione e nella riforma dell'IRPEF di cui anche oggi il Sole 24 Ore si occupa, specialmente per i redditi medi e medio-bassi. Ti brillano gli occhi quando pronunci la parola IRPEF. È la riforma del fisco lì che si aspetta, beh, sai che l'IRPEF ha diversi problemi, ma non attardiamoci, parliamo sempre di lavoro e di imprese ferroviarie, cara Deborah. 10.000 assunzioni previste nell'arco dei prossimi 3 anni nel trasporto ferroviario sarebbero stimate appunto in questo momento, secondo una ricognizione che ha fatto proprio il Sole 24 Ore, condotta fra le principali società presenti in Italia. Le possibilità di impiego riguardano un ampio ventaglio di figure professionali: macchinisti, capitreno, dirigenti di movimento, operatori di impianto, hostess e steward di bordo, operai per la manutenzione, ingegneri, manovratori, personale laureato per settori amministrativi. In testa alla classifica delle assunzioni ci sono le ferrovie italiane, ma non è da sottovalutare il settore del trasporto merci privato, che è alla ricerca di almeno 3.000 macchinisti nel prossimo triennio. Tutto questo naturalmente con l'obiettivo di far arrivare alla totale puntualità i convogli, perché qua, come sappiamo, devo fare un altro editoriale? No, lascia stare, che già ci siamo inimicati i tassisti. Ma abbiamo fatto pace con i tassisti la settimana scorsa. Diciamo con alcuni di essi. Che parliamo presto dell'RC Auto formato famiglia. Non ne parliamo affatto perché si va verso il rinvio. Allora, doveva debuttare lunedì prossimo, però siccome c'è sempre lì da convertire, da far diventare definitivamente legge dello Stato, il decreto legge detto mille proroghe, e già quello lì aveva una proroghina di una quindicina di giorni per questa famosa RC auto familiare, quella che appunto consentirebbe di fare le polizze RC con sulla migliore classe offerta di della merito, famiglia, esatto. Sulla miglior classe del familiare. Ecco, però non si fa tempo, sono tutti abbastanza agitati, anche le compagnie assicurative che dicono non siamo assolutamente in grado di essere pronti per lunedì prossimo, e allora si sta pensando di dare un altro tempo, diciamo altri 4 mesi, quindi andremo più o meno alla fine del semestre all'incirca. Vediamo che cosa, come sarà la decisione poi del Parlamento. Il decreto mille proroghe scade più o meno alla fine di questo mese e quindi a giorni vi sapremo dire se e quando partirà davvero l'RC auto di famiglia. L'ex marito non paga l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie di 7 e 8 anni, 360 euro in totale. Il giudice ordina il pignoramento di una parte del reddito di cittadinanza riconosciuto all'uomo. È accaduto ad un quarantenne di Andria, lo ha stabilito il tribunale di Trani nel corso del giudizio di separazione della coppia. Uno dei primi provvedimenti del genere in Italia, per cui è stato possibile pignorare il reddito di cittadinanza senza il limite del quinto in caso di necessità di assicurare gli alimenti ai figli. Lo ha commentato appunto l'avvocato che ha assistito la ex moglie dell'uomo nel procedimento davanti al giudice istruttore di Trani. Lui si era sottratto a quanto pare quasi subito al pagamento dell'assegno di mantenimento e dopo diversi tentativi di recupero bonario di quanto dovuto, ha ricordato appunto l'avvocato, l'ha portato questa signora di nuovo in tribunale. Il risultato: sarà l'INPS, su ordine del giudice, a detrarre la somma di 360 euro dall'assegno di 859,67 centesimi con cui ogni mese lo stesso istituto riconosce il reddito di cittadinanza all'uomo. Certo che se questo signore ha chiesto il reddito di cittadinanza e le cifre di cui parliamo sono queste, immaginiamo che parliamo di una situazione economica complessiva molto molto molto precaria, molto difficoltosa, per cui insomma parliamone ovviamente con il massimo rispetto di tutte le parti in causa. E questo diciamo che fa tornare d'attualità quanto ci viene sempre spiegato dai nostri ospiti quando ci occupiamo di mantenimento dei figli nel caso di separazioni, di divorzi, assegni all'ex coniuge. I figli sono sempre, come dire, tutelati, difesi prioritariamente, e anche questa decisione del giudice, che appunto è andato persino sul reddito di cittadinanza per, esatto, garantire l'assegno, lo conferma, cioè il primato appunto del mantenimento dei figli. Vorremmo inimicarci un po' ancora le compagnie telefoniche. Ancora? Dopo... Vabbè, sì, ormai, figurati. Secondo me non saremo più nel diritto neanche di comprare un telefono noi prima o poi, altro che interruzione ci saranno le nostre foto segnaletiche su tutti i negozi che offrono contratti telefonici. Vabbè, io mi presenterò con un bel tennis, così sarà una bella foto. Ma ce l'hanno detto a Due di Denari, dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Bisognerebbe parlare non solo della tariffazione a 28 giorni, ma anche degli aumenti tariffari già nel primo anno. Uno stipula un contratto per 30 euro al mese e durante il corso dell'anno, anche entro i primi 6 mesi, unilateralmente cambiano le condizioni e passa a 35 euro al mese. Ovviamente si è libero di cambiare operatore, però questo comunque è una scocciatura per tutti ed è la seconda volta in 2 anni che mi capita con 2 operatori diversi. Ma se io faccio un contratto con un operatore che mi dice tu pagherai, esempio, 10 euro al mese per sempre e poi fa questi cambi di contratto a suo piacimento, se no ti dicono ricesiamo dal contratto, loro non dovrebbero pagare delle penali come le paghiamo noi? Grazie. Io non commenterei, ma manderei subito la sigla della nostra rubrica di oggi. Andiamo, è mercoledì, dobbiamo parlare di lavoro, non attardiamoci. Dov'è il nuovo lavoro? Allora, caro Mauro, domani a Milano c'è una conferenza stampa che si intitola 1001 stage, 1001 giovani, 960 imprese, presentazione dei risultati del progetto. Di che progetto stiamo parlando? Marina Verderheim, ben trovata. Grazie. Allora, stiamo parlando del progetto 1001 stage, esperienze formative sul territorio nazionale finalizzate all'inserimento di giovani. Un'anteprima veramente mondiale, perché la conferenza è domani, Mauro, lo ribadisco. Analizzo ulteriormente questa presenza di oggi, ci anticipiamo delle belle notizie. Ma qui a Due di Denari noi diamo solo anteprime di valore mondiale, quindi siamo esattamente in linea con la nostra tradizione. Scusi, dottoressa. Assolutamente mondiale, perché abbiamo appunto aiutato 1001 giovani ad entrare nel mondo del lavoro attraverso lo strumento dello stage e poi la trasformazione in occupazione, e ci hanno aiutato in questo 960 aziende a cui abbiamo bussato alla porta, per cui un grande lavoro su tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo. Noi abbiamo sedi su tutto il territorio ed è stato un vero e proprio lavoro che ha visto i social come principale strumento di comunicazione nei confronti dei giovani. Tutto il digital, perché queste iniziative noi le facciamo da tantissimi anni, dalla primissima iniziativa che abbiamo fatto ben 20 anni fa, dove raccoglievamo i curricula, quasi 30 curricula cartacei. Invece, grazie alla tecnologia, ci ha aiutato a portare dei numeri veramente importanti. Noi abbiamo avvicinato, abbiamo contattato una serie di giovani, ne abbiamo selezionati 8.000 appunto i mille stage, 8.900, e ne abbiamo contattati attraverso i social, la comunicazione eccetera, oltre 915.000, per cui numeri veramente importanti. Certo. Stage di che tipo e che verranno effettuati in quali aziende? Sì, noi abbiamo appunto iniziato questo percorso, è passato un anno e mezzo ormai, siamo ai risultati finali, e di questi 1001, 300 sono già finiti e gli altri sono ancora in corso sul territorio nazionale. La Lombardia ha fatto un po', diciamo, la parte del leone, con 500 attivazioni complessive, e il resto d'Italia, dove la Sicilia ha avuto anche la sua buona parte, hanno contribuito al raggiungimento di questo numero. I numeri sono importanti, soprattutto nei settori quali? Settori che sono settori dove c'è grande necessità, lo si diceva prima, tutto il mondo dell'IT, tutto il mondo dell'information technology, del digital, il mondo della logistica, per cui quello di cui abbiamo parlato e quindi poco anche fa. Queste richieste che abbiamo segnalato, insomma, questa ricerca di personale che si annuncia per nel trasporto a vario grande, titolo sia per il trasporto ferroviario che anche per le consegne di beni, di merce, combacia con quello che risulta a voi. Assolutamente sì, e tutto il mondo della comunicazione, commercio, e-commerce, ovvero tutto quello che ha a che fare con le vendite. Questi sono stati i grandi numeri e sono ancora in corso, e confermano un po' tutto quello che noi facciamo durante l'anno presso i nostri sportelli. Ne abbiamo, come ho detto, su tutto il territorio nazionale, dove le imprese vengono a bussare alla nostra porta e ci chiedono giovani da inserire. in tanti ambiti, mm-hmm. certamente. Allora, io stavo mettendo sul Twitter, a proposito di cose digitali e di social, sa che noi utilizziamo, io soprattutto uso questo vezzo di mettere l'articolo determinativo per, anche per i social più così utilizzati, stavo mettendo sul Twitter Job Farm, cioè stavo invitando i nostri ascoltatori che ci seguono anche sui social a collegarsi con Job Farm. Che cos'è Job Farm? Come si collega appunto a queste iniziative che vengono fatte per indirizzare, mi verrebbe da dire, i giovani agli stage? Sì, allora Job Farm è una realtà che tiene dentro di sé più soggetti. Uno è ACTL, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa di giovani da sempre. Cultura e tempo libero, esatto, infatti, tanto per spiegare un po' l'acronimo. Esatto, poi abbiamo sportellostage.it, che è nato nel 99 ed è un portale che si occupa di incontrare, fare il matching, domanda offerta di stage e col tempo anche apprendistato, che è diventato molto importante, e poi Recruit, che è una società di ricerca, selezione e intermediazione. Allora, queste tre realtà insieme costituiscono Job Farm. Con Job Farm noi andiamo sul territorio e facciamo orientamento ai giovani per avvicinarsi a quelle che sono le figure professionali richieste e dunque migliorarsi anche attraverso la formazione professionalizzante a 360 gradi, e orientamento alle imprese per dare il proprio contributo sul territorio dove sono presenti e inserire giovani, e con loro facciamo proprio delle operazioni, come abbiamo fatto con Mille Uno Stage, di avvicinamento del mondo dei giovani col mondo delle imprese, come attraverso delle accademie aziendali, la formazione professionalizzante che aiuta a avvicinare quel gap che c'è tra la formazione e il lavoro. Interessante l'aspetto dell'orientamento all'impresa, perché noi immaginiamo che ovviamente nel momento in cui si aprono delle posizioni l'azienda abbia delle idee molto chiare rispetto ai suoi bisogni, e quindi è vero che qualche volta anche l'azienda brancola un po' nel buio nella ricerca dei profili professionali appunto che deve, con cui deve soddisfare le sue necessità? Assolutamente sì, devo dirlo, nel senso che le aziende hanno molto chiaro di aver bisogno di una figura professionale. Abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di manutentori, abbiamo bisogno di il digital manager, e non lo trovano e brancolano nel buio, nel senso che dicono: beh, facciamo un'offerta, arriveranno sicuramente un'offerta di lavoro sui social, su tutto il mondo che conosciamo, e non arriva nulla. Perché? Perché non ci sono. Per cui brancolano nel buio perché? Perché non hanno, e si sta avvicinando questo, ma sempre di più hanno bisogno di supporto, capito che la cosa importante è essere presenti sul territorio, essere presenti in forma circolare, si parla molto di circolarità, e in maniera responsabile e sostenibile, per avvicinare giovani e non giovani al valore dell'impresa, al proprio patrimonio. Per cui essere presenti nelle scuole, nelle università, nei propri comuni, portano valore e ricevono valore attraverso l'avvicinamento di coloro che sono interessati ad entrare nel mondo del lavoro con la formazione. Ci dobbiamo fermare per qualche istante perché dobbiamo dare le informazioni sui mercati finanziari, insomma, in una parola, Deborah, le borse. Bravi, fate pubblicità alle banche, bravi, bravi. Due di denari. Chiude un'azienda italiana e apre un'azienda straniera, mica c'è da stare tanto allegri. Il 90% se non di più del reddito di cittadinanza va a persone che comunque vivono e lavorano in nero, quindi il fatto che abbiano tolto a questo il reddito di cittadinanza è sicuramente solo soldi in più che lui non si aspettava, visto che continua a fare il suo lavoro in nero. Mi pare una cosa giusta. Ma se al posto di pignorare il reddito di cittadinanza si andasse verso una gestione dei figli al 50%, quindi un mantenimento diretto solo delle spese dei bambini, piuttosto che pignorare il reddito di cittadinanza? Non so, la metto lì, visto che sono anch'io in questa situazione, e preferirei magari tenere mio figlio al 50% del tempo piuttosto che dover pagare alla ex moglie quella cifra. Io credo che molte coppie si mettano d'accordo in via spontanea con queste modalità, poi quando deve intervenire un giudice in realtà magari è un po' più drastico. Se le separazioni non avvengono con grande serenità, ma questa è la, come dire, considerazione di una persona che in queste vicende non c'è passata. Detto questo, magari sui temi del diritto di famiglia che tanto scalda nel nostro programma torneremo. Se questa vicenda del papà di Andri, appunto, a cui è stato pignorato il reddito di cittadinanza, vi ha appassionato, rimaniamo sul lavoro. Sì. E cosa vogliamo chiedere ancora a Marina Verderai? Allora, io, anche facendomi l'attore e portavoce delle molte telefonate e messaggi che stanno arrivando, 349-238-6666, potete mandare sms o messaggi WhatsApp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. Dicevo, facendomi l'attore, faccio in un blocco già due domande. Bene, mi fai un po' il ribelle stamattina? Sì, sì, faccio il ribelle perché ho letto Talenti e Ribelle, ho cominciato a leggerlo e mi sono ispirato. Ti sei gasato subito. Sì, sì, tantissimo. Allora, età, chiedo a Marina Verderaime, età massima per accedere a questi progetti, a questi siti che ci ha consigliato, quindi jobfarm.it, sportellostage.it. Se arriva un signore diversamente giovane, come potrei essere io, che ha perduto il lavoro, che non fate? Dirlo neanche per scherzo. Sì, sì, tutti possono accedere a un percorso di tirocinio. I tirocini extracurriculari sono proprio pensati per coloro che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. In ogni regione e in tutta Italia si possono fare. Il nostro sito, il nostro portale dà la possibilità di candidarsi e poi noi aiutiamo le aziende a individuare quelle che sono le competenze, le persone più idonee. E questo è molto importante. Altro discorso è l'apprendistato, che è il contratto previsto per l'inserimento dei giovani, che a seconda del primo livello professionalizzante eccetera ha un'età, limite di età, che sono i 29 anni, che è di legge. E però è molto importante poi fare anche la distinzione del fatto che il tirocinio è un momento in cui l'azienda può selezionare e colui che entra in azienda può portare il proprio e capire dov'è e come ci si può muovere all'interno di un'organizzazione. Un altro tema che si rincorre e diciamo ottiene molte segnalazioni: compenso. Vado a fare uno stage, quindi mi sono segnalato nei siti che ci ha consigliato, sono stato selezionato, vado a fare questo stage, ma mi danno qualcosa sì o no? Perché è un po' sempre il grande dubbio, il grande dilemma. Certo, il grande dilemma perché c'è un po' di confusione nel mondo del tirocinio. I tirocini extracurriculari prevedono in tutte le regioni italiane un'indennità che va da 350 più buoni pasto euro al mese a 800 in alcune regioni. Obbligatorie per legge, l'azienda deve dare questo riconoscimento. Poi ci sono altre tipologie di tirocini. Ci sono i tirocini curriculari, che sono quelli che si fanno durante un percorso di studi normato o un percorso universitario. Ad esempio il praticantato degli avvocati mi viene esattamente in mente, che si può svolgere anche durante gli studi di giurisprudenza. Esatto, quelli sono curriculari, sono finalizzati all'acquisizione di crediti formativi o in quel caso per poter accedere all'iscrizione per fare l'esame di Stato o iscrizioni di albi e quant'altro, anche gli psicologi penso, e questi invece non prevedono forme di, ma sono volontari dell'azienda. Certo. O tra le parti. Volevo fare un'altra domanda, Marina, perché mi serve un assist per passare all'ospite successivo. Sentite che volo pindarico che ho fatto. Una persona che approfitta delle opportunità che date, che è un po' più esperto, un po' più avanti nell'età, il diversamente giovane, appunto, esatto, come lo definiva Mauro, chi viene a candidarsi a fare uno stage attraverso i vostri sportelli se ha 45-50 anni, chi è drammaticamente espulso dal mercato del lavoro e non trova opportunità, o c'è anche un po' il folle che decide improvvisamente di cambiare vita e va a cercare di annusare le opzioni che ci sono sul mercato? C'è sia l'uno che l'altro, nel senso che noi tra l'altro con il percorso di tirocinio aggiungiamo spesso dei percorsi di formazione professionalizzante, come dicevo prima, in ambito digital, per esempio digital marketing piuttosto che social media, e questi sono molto frequentati da coloro che hanno magari competenze molto specialistiche in altri ambiti, ma addirittura nell'arte, umanistiche piuttosto che tecnici eccetera, e attraverso questi percorsi che non sono lunghi, sono anche brevi, possono essere anche più lunghi, ma diciamo con 100-200 ore si acquisiscono quelle competenze che gli possono permettere di accedere al mondo dei tirocini. che noi favoriamo attraverso incontri appunto con le imprese e il tirocinio stesso. E quindi, Mauro, bisogna essere anche un po' ribelli per fare queste scelte. Allora io stamattina vorrei presentarvi colui che è stato nominato più volte come una delle figure più influenti dell'innovazione nei servizi finanziari in Europa. E siccome ha un curriculum che non finisce più, qua mi fermerei, ve lo faccio conoscere direttamente. Buongiorno e ben trovata Matteo Rizzi, autore di Talenti e Ribelli, come gestire gli irrequieti dell'innovazione, ne scrive lui nel suo ultimo libro. Matteo, ben trovato e buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Mauro, ciao Deborah, la grazie sua ultima, di avermi con voi. La sua ultima attività nel 2015 ha cofondato Fintech Stage, o Fintech Stage, non so come la pronunciate. Matteo si occupa di consulenza tecnologica e innovazione in ambito finanziario. Matteo, che ne pensi di un cinquantenne che a un certo punto butta tutto all'aria e va a Job Farm a cercare, come dire, magari di fare un tirocinio in un'azienda per cambiare completamente traiettoria professionale? Ma diciamo che avrebbe tutta la mia ammirazione e probabilmente lo intervisterei nel mio prossimo libro, nel senso che una persona diversamente giovane, grazie Mauro, questa la riciclerò questa espressione, non usando ma volentieri. Non usando spessissimo l'italiano nei miei discorsi, paradossalmente parlando ho sempre bisogno di queste chicche. Prego, prego. E quindi che consigli? Perché mettiamo che sia io, non so, vengo espulso da Deborah da questo studio, e che mi dici? Perché qui abbiamo passato, diciamo, anche di slancio la mezza età, cioè i 50. Che, guarda, che facciamo? Io li passerò tra pochissimo, per cui sono assolutamente solidale. Allora, il discorso è, analizziamo un secondo del perché un cinquantenne o una persona di qualunque età decide di cambiare. Ci sono fondamentalmente più ragioni. La prima è che forse perché la società o l'impresa, la company per cui questa persona lavora diventa intollerante nei suoi confronti. E un'altra ragione potrebbe essere perché lui si sente un pesce, lui o lei si sente un pesce fuor d'acqua. Oppure perché ha provato a cambiare da dentro la propria situazione lavorativa e non ci è riuscito. Queste ed altre ragioni lo convertono un po' convertono questa persona un po' in un emarginato, no? Però potrebbe anche essere, ed è questa una delle tesi del libro, l'opportunità della vita per questa persona, l'opportunità di cercare qualcosa dove veramente poi uno si sveglia al mattino con una tale passione che non gli sembra quasi lavorare, no? Sembra semplicemente la sì. Vita e il lavoro diventano un po' la stessa cosa. Questa è un po' l'idea. Certo. E in questo libro mi sono, scusate ragazzi, concludi, a parlarvi sopra. No, è che abbiamo il traffico imminente. Guarda, aspetta lì Matteo, così poi te lo facciamo dire tutto questo concetto con calma e serenità. Togliamoci di mezzo l'ingombro delle 11:45. Ci hanno già fatto i fari abbaglianti nello esatto. Specchietto e mi rendono nervoso. Tra un attimo torniamo da Matteo Rizzi. Talenti e ribelli si chiama il suo libro. Traffico. Ogni venerdì a 2 di denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu, inviandoci il tuo componimento a 2didenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo. La finanza è poesia. È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari. Fino al 30% in meno di emissioni. Esenzione del bollo fino a 6 anni. E più libertà di circolare. A un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro. Con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid. L'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio. TAN 6,45. TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica. Due di denari. Purtroppo ve lo dico col cuore in mano, le aziende con gli stage e i tirocini si approfittano e si arricchiscono. Chi la prende in tasca sono sempre i giovani e i lavoratori. È un mondo veramente ingiusto, tanto tanto ingiusto, vergogna. Le imprese che cercano dei tecnici, figure tecniche, brancolano nel buio perché non sanno neanche loro quello che stanno cercando. Cercano un neolaureato con 10 anni di esperienza, oppure cercano di 10-15 persone professionali tutte assieme, oppure, peggio ancora, mi è capitato che cercassero un esperto di un linguaggio di programmazione uscito un anno prima, che però avesse 5 anni di esperienza su quel linguaggio di programmazione. Se non trovano i tecnici, un motivo c'è. Ed è esattamente il ragionamento che facevamo prima con Marina Verderaime e che penso, Marina, vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto? Anche le aziende, infatti, abbiamo detto, sì, hanno bisogno di orientamento. Assolutamente sì, cioè il vento della digitalizzazione che soffia dappertutto nel mondo, soffia anche in Italia, e le aziende stesse davvero non sanno di chi hanno bisogno, dunque bisogna fare orientamento per loro nel capire chi cosa hanno bisogno, perché non è la macchina che entra, ma sono le persone che vanno formate, sono le competenze che io devo portare avanti dentro l'azienda e fuori dall'azienda, orientando il territorio con, certo, i giovani, e per cui questo è il mismatch. Matteo, anche tu incontri molte aziende dove vai a tentare di capire intanto come gestire i ribelli che hanno al loro interno per valorizzarli e non come considerarli a volte come fattori di disturbo, no? E ti capita di percepire questa difficoltà delle aziende di individuare la professionalità esatta che serve a coprire tutte quelle posizioni scoperte che causano questo drammatico problema del mismatch italiano? Assolutamente, mi capita molto spesso. Di fatto oggi le aziende si trovano di fronte a dover assumere gente per dei lavori che non esistono ancora, per cui non è soltanto una confusione nel tipo di competenze richieste, ma anche nello scoping del lavoro che queste persone devono fare. E di fatto, secondo me, il fatto di cominciare a considerare questi talenti diversi, ribelli, mismatch, irrequieti, chiamiamoli come vogliamo, come una risorsa di per sé valorizzante per una impresa, è una cosa che oggi le società in genere non sono abituate a fare. Ripeto, questo tipo di talenti oggi è considerato un problema da risolvere più che una opportunità, perché a tutti piace stare un po' in quella che tu racconti molto bene, la comfort zone, anche nel mondo del lavoro, perché ce l'ha chi ha una situazione di lavoro molto stabile, fa fatica a pensare di rivoluzionare la propria esistenza lavorativa, ma anche le aziende naturalmente hanno vissuto condizioni di comfort zone a lungo, adesso devono ribaltare il proprio approccio per reperire personale, e quindi per tutti si tratta di uscire da questa grande zona di conforto, ma è molto difficile, no Matteo? Assolutamente, e di fatto dietro ad ogni grande fallimento, dai più famosi come Blockbuster o Xerox o la Kodak, che è l'esempio sulla bocca di tutti i consulenti dell'innovazione, ci sono persone che non sono state ascoltate, o ci sono diciamo talenti diversi, come li chiamo nel libro, che hanno provato a cambiare le cose da dentro ma non sono stati ascoltati. E secondo me questo grande evento di cambiamento portato dalla tecnologia e dalla digitalizzazione farà in modo che le aziende cominceranno a scuotersi. Stanno cominciando adesso a scuotersi. Io non so, Deborah e Mauro, se ci fate caso, però adesso non c'è più soltanto l'head of human resources, l'head of HR. Sì, il manager delle risorse umane, sì. Esattamente. Adesso ci sono figure come il capo dei talenti, head of talent, o il capo della conoscenza, head of knowledge. Queste figure non esistevano fino a qualche anno fa. In alcuni casi sono un goffo tentativo di adattarsi al mondo che cambia, perché magari si cambia nome ad una professione che fa sempre, esatto, la stessa cosa. Abbiamo, ecco, cambiato una targhetta fuori, ecco, dall'ufficio, insomma, vuoi dirci. Esattamente. In altri casi invece sono dei veri e propri approcci diversi, molto innovativi, dove ad esempio con dentro Fintech Stage noi stiamo facendo una missione con una grossa banca italiana, e non è la prima, che trasforma i suoi dipendenti in imprenditori, quindi simuliamo un percorso, se vogliamo, di un percorso simile al percorso di un imprenditore che deve costruire una startup all'interno di un'azienda. Quindi questo Fintech perché? Stage, no? Tanto ci ho pensato, quindi Fintech Stage, il palco, quindi non è lo Fintech Stage, perché si poteva prestare anche all'equivoco. Matteo, ti lascio concludere che fra un po' chiudiamo. Semplicemente per dire che ci sono questa voglia di adattarsi, deve esserci sia dalla parte dei talenti che dalla parte delle imprese. Il libro prova a conciliare queste due realtà. Certo. Vuole essere un manuale d'uso per le aziende e una guida di sopravvivenza per i ribelli. 20 secondi per Marina Verderheim, perché il tema della rigidità è quella che riscontrate voi anche in chi si candida a partecipare ai vostri stage. Esatto, e è importantissimo le competenze hard, per cui l'acquisizione di competenze hard, manageriali, digitali, comunicazionali, ma soprattutto le competenze soft, la capacità di ascoltare, relazionarsi, fiducia, con altri, relazionarsi, comunicazione, gestire il tempo, le riunioni, certo, e così via. E quale tutto sito varato ricordiamo della vostra numerosa attività? Jobfarm.it, per candidarsi a tutte le offerte che abbiamo. Jobfarm.it è scritto con la I lunga, quella di quella squadra lì di Torino. Mamma mia, e talenti e ribelli di Matteo Rizzi. Guarda come mi sei ribelli.